México. Con un guayabito, con un guayabito, con un guayabito, con un guayabito. Guayabito, te vive en gallina, se ando yo paso tomando conmigo guayabito. Conmigo.